anche noi in qualche modo tutto quello che sta succedendo qua parte un po' da una storia simile, un po' più piccola, però simile, nel senso che se è iniziato il lavoro con gli agricoltori, è iniziato appunto opponendoci a un progetto infrastrutturale che investiva il nostro territorio, che sta tra il Parco Agricolo Sud e il Parco del Ticino. Questa idea di superstrada da Milano che dovrebbe arrivare, in realtà un pezzo c'è stato fatto, arriva fino a Magenta, di superstrada che collega Malpensa a Milano, e da lì è stato appunto un movimento e un incontro di persone legate a un'opposizione di un progetto infrastrutturale. Da lì abbiamo incominciato a fare una serie di riflessioni sul territorio. Infatti l'idea di questo incontro, il titolo è La roncola dalla parte del manico, una sorta di riflessione sull'agricoltura e sulla cementificazione, sui grandi progetti infrastrutturali nell'anno in cui Milano è stata designata per l'Expo del 2015. Abbiamo invitato la professoressa Bianchetti del Politecnico di Torino con l'idea che è un urbanista innanzitutto, che ha lavorato, la cosa che un po' ci aveva incuriosito e invogliato a contattarla, a parlarci, era che lei ha lavorato a Torino sulle Olimpiadi invernali del 2000, giusto? 2006. Sei anni di differenza. La prima cappellata. È interessante il lavoro che ha fatto, perché ha analizzato un po' che innanzitutto l'anomalia, che uno dice cosa ci azzecca, cosa c'entra le Olimpiadi a Torino, in una metropoli. E poi tutte le, diciamo così, gli effetti collaterali e le implicazioni sociali, economiche, penso, che un grosso evento porta in una città, no? E quindi ci incuriosiva, no? Perché comunque di Expo si parla in modi diversi, poi avremo l'occasione di entrare nel merito più specificatamente. Però sempre in positivo, no? Ci fanno credere che hanno trovato la ricetta per ci sembrava giusto incominciare a capire come analizzare un grosso evento tipo appunto le Olimpiadi, l'Expo, i mondiali a Milano. Io mi ricordo di aree dismesse ancora oggi in giro, qualcuna occupata più o meno. Insomma, sentiamo la professoressa.